Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sei minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria in attesa dell'attesissimo referendum che inizierà domani alle 10 a Mirafiori, poi continuerà venerdì. Dichiarazioni anche oggi di Nichi Vendola, del Presidente del Consiglio Berlusconi, già i nostri GR ve l'hanno raccontate, comunque ne parleremo anche noi. E invece attesa domani per un'asta molto importante tra i 4 e i 6 miliardi di BTP, di obbligazioni pluriennali del Tesoro italiano, per vedere come andranno i rendimenti. Dall'altro, però, oggi bene è andata l'asta delle obbligazioni portoghesi e anche questa notizia è servita a far crescere tutte le borse, soprattutto Milano. Milano guadagna infatti un punto e mezzo percentuale in più rispetto alle altre borse europee, addirittura il 3% più di Londra. Guadagna il 3,60% adesso Milano, con Parigi più 2,1, Francoforte più 1,70, Londra più 0,40%. Per quello che riguarda invece l'America, più 0,77% l'indice Dow Jones. Milano, dicevamo, più 3,6 con un euro a quota 1,30. E chi va bene? Anzi, diciamo chi cala, che facciamo prima. Fiat Industrial realizzi sul titolo che è molto a corso, la parte camion e trattore della Fiat. Praticamente l'ultimo prezzo è 9,96 euro, meno 1,92%, Exor perde qualcosa, l'1,24%. Fiat Auto invece continua a guadagnare l'1,1%, ma ad essere fortissime oggi sono tutte le banche. Intesa San Paolo guadagna il 9,90%, Unicredit più 8,82%, e ancora Popolare di Milano più 8%, Ubibanca più 7,70%, Banco Popolare più 6,80%, Fondiaria più 6,40, Monte dei Paschi più 5,50, Generali più 4,70 e Azimut, comunque risparmio gestito, più 4,11, Mediobanca più 3,80%. Insomma, Intesa guadagna quasi il 10%, Unicredit quasi il 9%, sono rialzi fortissimi. Di questi parleremo. Partiamo però prima delle notizie in breve. Oggi ci occuperemo di questo, della Germania che ha avuto una crescita record ed è completamente fuori dalla recessione e torna ad avere quasi la piena occupazione. Poi ci occuperemo del porto di Gioia Tauro bloccato, il più grande porto container d'Europa bloccato, cassa integrazione a sorpresa, e della vicenda Fiat, ma anche della vicenda Cari Verona Unicredito barra Popolare di Verona. La fondazione Cari Verona, che è dentro Unicredito, parteciperà, comprerà una quota della teoricamente concorrente Banca Popolare Italiana, dove dentro c'è anche la ex Popolare di Verona. 349-238-6666 per i vostri sms. Dicevo però, visti i rialzi dei titoli di borsa, la borsa più 360, i bancari, rispolveriamo il primo gallo dell'anno. E basta, fermate il pollaio. Allora, bene il gallo, primo gallo dell'anno. Già il gufo ha fatto il suo esordio? Forse sì, sì, l'ha fatto, ahimè, il 3-4 gennaio. Comunque, andiamo avanti. Intesa, dicevamo, bene anche altri titoli. Finmeccanica più 3%, Buzzi Unicem più 3,5%, Mediaset più 3, Enel più 2,4, Estima Electronics più 2,3, come A2A e l'Automatica, il 2,2 Tenaris, il 2% Atlantia. La produzione industriale italiana a novembre è risalita più 1,1%, più 4% da inizio anno, però il centro studi Confindustria commenta il dato e dice: la ripresa è faticosa, l'economia italiana, o meglio la produzione industriale italiana, sarà in stallo anche a dicembre. Ancora, sul governo, ma ne parleremo più avanti. Berlusconi dice no alla manovra, anzi ascoltiamolo subito. a chi chiedeva se l'Italia avrebbe avuto bisogno di una seconda manovra, una seconda manovra correttiva è irrealistica. Tra l'altro è arrivato, dopo le parole di Berlusconi, è arrivata anche una nota della Commissione Europea, del commissario agli affari economico monetari Olli Rehn, che ha detto: per il 2011 all'Italia non chiediamo nulla di più, ha già intrapreso un percorso di solido consolidamento dei conti pubblici. Questo dopo che erano circolati su alcuni siti indiscrezioni di Bruxelles che avrebbe chiesto una manovra da 135 mila miliardi all'Italia per i prossimi 3 anni, c'è cioè una cosa sui 40 miliardi all'anno, e diciamo no dal commissario europeo, ma è anche, lo ha escluso il presidente del Consiglio Berlusconi, che oggi ha avuto il vertice bilaterale con la collega tedesca Angela Merkel. Non vedo nessun realismo in questa possibilità che alcuni giornali hanno menzionato, in questa anzi necessità di una manovra di 135 miliardi. Dai conti dello Stato, che hanno conosciuto anche recentemente un miglioramento per quelle che sono le risorse necessarie, con quasi 20 miliardi di miglioramento rispetto all'anno precedente, non vediamo ad oggi alcun rischio di questo tipo. E poi Berlusconi ha anche detto: ovvio che saremmo onorati come Italia se la scelta europea del prossimo governatore della Banca Centrale Europea cadesse sul governatore della Banca d'Italia Mario Draghi. Ha continuato: spero comunque, e poi qui veniamo alla Fiat, dove le polemiche non sono mancate. Perché? Perché il Presidente del Consiglio ha detto: spero che l'esito sia positivo per l'accordo tra sindacati e azienda, bene se si va verso una maggiore flessibilità, ma soprattutto ha commentato su Marchionne e ha detto: ma insomma, capisco Marchionne, se arrivasse un no farebbe bene a lasciare l'Italia. Sentiamo comunque la dichiarazione del Presidente del Consiglio proprio sulla maggiore flessibilità e sul commento alla vicenda Fiat. È la prima volta che Berlusconi parla della vicenda Fiat in maniera così esplicita. Su Fiat noi riteniamo assolutamente positivo lo sviluppo che sta avendo la vicenda, con la possibilità di un accordo tra le forze sindacali e l'azienda nella direzione di una maggiore flessibilità dei rapporti, che è molto positiva per quanto riguarda la flessibilità del lavoro. E dobbiamo dire che, ove questo non dovesse accadere, chiaramente le imprese e gli imprenditori avrebbero buone motivazioni per spostarsi in altri paesi. Quindi ci auguriamo che la vicenda possa avere un esito positivo. Ed è quest'ultima frase che ha scatenato poi le reazioni polemiche, quando Berlusconi ha detto: insomma, dove l'accordo non dovesse andare in porto, capiamo, gli imprenditori avrebbero altre opportunità per andare fuori e andare all'estero, interpretata in maniera un po' forse più forte delle agenzie. Comunque, insomma, il governo non è assente, il governo che avrebbe dovuto svolgere il ruolo di arbitro è invece sceso in campo a gamba tesa dalla parte di Marchionne, ha detto il leader di Sinistra Ecologia e Libertà Nicky Vendola. Poco fa, qualche minuto fa, la segretaria della CGIL Susanna Camusso ha detto: le parole di Berlusconi sono un danno per il paese, il Presidente del Consiglio sta facendo una gara con l'amministratore delegato della Fiat tra chi fa più danno al nostro paese. Bersani, segretario del PD, pochi minuti fa: Berlusconi si vergogni, pensi all'Italia. Berlusconi non se ne accorge perché è un miliardario, ma noi paghiamo a lui uno stipendio che gli sembrerà misero per occuparsi dell'Italia e non per far andare via le aziende. Cioè, le reazioni sono sulla frase in cui ho detto: ovvio che se l'accordo non andasse, non avranno altre opportunità per uscire dall'Italia queste aziende. Durante la visita però di Nicky Vendola alla Fiat, contestazioni e tensione, anche questo ve l'hanno ricordato i nostri GR. E allora andiamo invece sul tema di apertura, poi torneremo anche sulla Fiat, se ce la facciamo oggi, abbiamo tanti approfondimenti. Ma dicevo, i debiti dei paesi europei, oggi collocamento delle obbligazioni portoghesi, in calo i rendimenti, che è una buona notizia, in calo i rendimenti, perché vuol dire che il Portogallo, per trovare sottoscrittori per il suo debito, ha dovuto offrire un po' di meno rispetto alle volte precedenti. È la migliore notizia che si potesse immaginare per il Portogallo e in generale per i debiti sovrani dei paesi un po' visti a rischio in Europa. Partiamo col primo tema, 349-238-6666 per i vostri sms. Come sono andati poi questi rendimenti? Beh, praticamente il Portogallo, che ha collocato oggi quasi 600 milioni di euro con scadenza in 2020, ha pagato un interesse medio del 6,7% contro il 6,8% di novembre. E poi, anche questa è una buona notizia, la domanda è stata tre volte superiore all'offerta. Lisbona ha collocato anche 650 milioni di euro con scadenza nel 2014. Qui il rendimento è un po' salito, al 5,4% contro il 4% dell'asta precedente di fine ottobre, ma la domanda è anche qui due volte e mezzo superiore all'offerta. È aumentato però il rendimento complessivo delle obbligazioni portoghesi rispetto a quelle tedesche. Però anche il rendimento delle obbligazioni tedesche per la prima volta è salito sopra il 3%, si riduce così il differenziale con altre obbligazioni. Questo è avvenuto nel pomeriggio, perché insomma è chiaro che se rendono di più le obbligazioni tedesche si riduce la differenza tra quanto rendono loro e altre obbligazioni di paesi più a rischio. Allora, dunque c'è chi dice, insomma, per non dire che Milano guadagna quasi 4 punti, l'abbiamo detto, Milano guadagna il 3,6%. Vedo molte frasi sulla "siamo una famiglia di negrieri sfruttatori, basta sentire le vostre trasmissioni, i vostri commenti" dalla FIOM di Milano. Sì, negrieri sfruttatori non so di chi, però il punto sulla Fiat, insomma, lo sintetizzo per l'ultima volta, tanto poi ne parleremo anche domani, è molto semplice. La Fiat ha un problema di modelli e questo abbiamo messo in evidenza in tutte queste settimane, perché i dati sulle immatricolazioni auto in Europa sono peggiori della media europea e altre case invece hanno chiuso un bellissimo 2010, Volkswagen, BMW, Renault e non so. E poi non è presente in Cina. Questo è il problema industriale, che non va passato in cavalleria. Poi c'è un problema degli accordi, delle relazioni industriali. Marchionne dice: le nostre fabbriche sono in perdita, non otteniamo un euro dalle fabbriche italiane, restiamo in Italia, investiamo 20 miliardi, ma dateci maggiore flessibilità nei contratti di lavoro. E su questo, secondo noi, Marchionne ha ragione, perché la Fiat deve stare in piedi a livello globale. Va bene, comunque torniamo sulle aste e ringraziamo per averci aggiunto in collegamento il professor Franco Bruni, che insegna economia monetaria internazionale all'Università Bocconi di Milano, editorialista della Stampa. Buonasera e buon anno, professore. Buonasera e buon anno a lei. Dicevo, bene l'asta in Portogallo, la Merkel che ha detto, insomma, è un dovere aiutare i paesi in emergenza riferendoci al Portogallo, ma il ministro delle finanze portoghese Teixeira dos Santos ha detto non sono necessari aiuti esterni. L'asta di oggi è un chiaro successo, la borsa di Madrid ha festeggiato assieme anche quella italiana, più 4% la borsa, più 7% in media i titoli bancari, e questo vale anche per noi, ricordo appunto Intesa quasi più 10%, più 9,91% e Unicredito più 9,5%, e così via, tutti a festeggiare. Tra l'altro le faccio anche ascoltare che cosa ha detto il commissario europeo agli affari economico monetari Olli Rehn quanto all'esigenza che si debba obbligare alcuni paesi a ristrutturare il debito, che sarebbe una sciagura, cioè riqualificare il debito vuol dire offrire poi ripatteggiare con tutti i creditori. Sentiamo Olli Rehn. Il consolidamento rigoroso dei bilanci pubblici è un requisito fondamentale per la stabilità economica e finanziaria e per una crescita che sia sostenibile. Il consolidamento in tutti i Paesi membri deve iniziare o continuare nel corso di quest'anno e andare oltre la correzione annua di 0,5 punto percentuale di PIL. Tutti i Paesi membri devono innanzitutto aggiustare la spesa pubblica e devono salvaguardare i capitoli di spesa che contribuiscono alla crescita, come la spesa per formazione, ricerca e innovazione. Guardando in avanti, il 2011 sarà senza dubbio un anno ricco di sfide, ma può anche diventare l'anno in cui l'Europa supera la crisi del debito, spinge il suo potenziale di crescita e attua la riforma della governance economica. L'ipotesi di ristrutturazione del debito della Grecia, così come quello di altri paesi dell'area euro, avrebbe conseguenze molto serie e negative e produrrebbe un effetto contagio. Rappresenterebbe infatti un precedente e noi non vogliamo andare in quella direzione. Non dovremo andare in quella direzione. Per ciò che riguarda gli Eurobond, si tratta di un'idea intellettualmente attraente ed è stato tra i temi di discussione nel contesto europeo per lungo tempo. Penso che l'idea più realistica sia quella di un rafforzamento della capacità effettiva dei meccanismi anticrisi, sia quello attuale, sia quello futuro permanente, e di allargare il raggio di azione. E su questo punto ci sono attualmente in corso discussioni tra gli Stati membri. I lavori sono ore in corso e, per quanto ne so, alcuni passi in avanti sono stati compiuti. Noi però per scaramanzia continuiamo a usare questa base turca, medio orientale, da Europa del Sud, professor Bruni, visto che poi i tedeschi, gli olandesi ci guardano come se fossimo ormai, insomma, no? Medio orientali per ora sta portando bene perché le aste stanno andando tutte bene. Allora, professor Bruni, possiamo festeggiare oppure aspettiamo l'asta dei BTP italiani domani oppure non festeggiamo proprio perché la strada è lunga? Prego. Ma saranno mesi difficili un po' tutti quelli prossimi, fra l'altro il Portogallo l'asta di oggi è piuttosto piccola, quelle grosse sono in aprile, la possibilità che si vada diciamo verso nuovi episodi di panico e di speculazione non è esclusa e quindi occorre continuare nei programmi di disciplina fiscale. Nel frattempo l'Europa deve continuare a approfondire quell'insieme di provvedimenti con cui ha monitorato la crisi fino adesso. Tra l'altro si parla della possibilità di aumentare un poco, anzi in modo anche molto significativo, questo fondo di emergenza che garantisce i debiti dei paesi e di permettergli anche di intervenire sul mercato secondario dei titoli di Stato di questi paesi, sollevando la banca centrale da questo compito che sta ormai svolgendo in un modo eccessivo la banca centrale, tenendoli poi troppo questi titoli, quindi potrebbe essere opportuno che a provvedere in questo senso fosse un fondo allargato. Però io non credo che si possa continuare così per sempre, bisognerà arrivare a un certo punto e la data più probabile è il 2013, avendo un sistema permanente in cui è ammesso anche il fallimento dei paesi, cioè sono dei sistemi diciamo ordinati in cui i paesi possono dichiarare fallimento e tagliare parte del loro debito e dei loro interessi punendo chi ha investito imprudentemente nei loro titoli. Naturalmente solo per i nuovi titoli che verranno emessi, non per quelli esistenti adesso, perché se si ammettesse certo di poter andare in insolvenza su questi sarebbe il panico, insomma. Ma sarà che qua siamo scaramantici, ogni tanto usiamo l'astrologa, ma 2013 come anno per accompagnare al fallimento, insomma, vabbè. Però mancano ancora 2 anni tutti pieni. E invece vorrei capire un'altra cosa con lei, professor Bruni, perché qual è il gioco pericoloso fra i 3 gruppi di protagonisti di questa vicenda, cioè i mercati, i governi nazionali e le istituzioni comunitarie, visto che lei vi fa riferimento in un suo articolo pubblicato proprio oggi? Il gioco pericoloso è che ognuno di questi giocatori ha diciamo un contributo positivo, ma anche un contributo pericoloso appunto al gioco. I mercati da un lato possono essere utili nel disciplinare i paesi perché fanno pagare di più il credito a chi è più indisciplinato e questo lo spinge i paesi a essere più disciplinati con la finanza pubblica, però d'altra parte i mercati possono essere fonte di speculazioni anche esagerate e irrazionali che peggiorano la situazione e destabilizzano i paesi senza ragione. I paesi stessi sono, diciamo, in positivo, sono quelli che lavorano in modo a volte molto costoso anche socialmente e politicamente per rimettere a posto i loro conti, ma d'altra parte hanno anche delle pretese a volte, degli ottimismi che mascherano delle debolezze interne di leadership, come succede in modo clamoroso in Portogallo. Cioè il fatto che il Portogallo, l'Irlanda prima di lui, la Grecia, vabbè. Per non caso parlare del Belgio, cioè che è inutile che lei rimanga solo a sud, abbiamo dei problemi carissimi certo. Anche in Inghilterra. In Inghilterra, in Belgio sono senza governo, per cui la Germania, guardi, che ha una leadership fragilissima, perché l'alleato con cui fa la colazione la Merkel oggi non ha più, stando ai polls, non sarebbe più in grado di fare, quindi insomma la maggioranza, la coalizione tedesca in sostanza è sulla carta, è già caduta, quindi intendiamoci, siamo tutti sulla stessa barca, quindi i paesi sono fragili e a volte giocano il bluff e noi siamo dei campioni in questo, dell'ottimismo. E infine gli organi comunitari, diciamo, sono da una parte molto importanti e stanno lavorando molto bene, ma dall'altra parte vanno molto piano, troppo piano. Quindi lei dice attenzione anche perché il gioco politico dei leader, che si chiamano Socrates come in Portogallo, oppure il futuro, speriamo che arrivi Premier in Belgio, e anche quello che è successo in Irlanda, cioè tutti a negare di aver bisogno di aiuti. Oggi abbiamo letto anche le dichiarazioni del ministro delle finanze portoghese che ha detto non abbiamo bisogno di nessun aiuto, e invece questo poi complica le cose perché l'aiuto arriva tardi, come abbiamo visto nel caso irlandese, quando ormai la speculazione ha avuto praterie, quando l'attacco è già compiuto e quant'altro. Domanda, secondo lei il fatto che questi scricchioli si stiano estendendo anche al Belgio ci tirerà fuori da questa quest'area un po' da Mediterraneo, paesi mediterranei, un paese del sole con l'ulivo? Credo che sia già perché un po' di spocchi tedeschi, francesi all'inizio l'avevano avuta, sì, ma credo che sia già abbastanza tramontata questa faccenda. E che qui si tratti di una mobilitazione generale su un problema comune. Quello dove noi obiettivamente siamo, a volte noi proprio meridionali, siamo un po' più deboli proprio nella capacità di mobilitarci dal basso. Cioè i paesi del nord hanno una base di persone più consapevoli del fatto che la vita collettiva richiede a volte sacrifici molto grossi, i quali sono naturalmente più difficili da sopportare quanta più ingiustizia sociale c'è in giro, perché certo. Quando si fanno delle strette a pagare sono sempre più deboli. Da noi. E quindi purtroppo nei paesi dove c'è una tradizionale attenzione all'ingiustizia come da noi è più difficile far passare per buoni dei provvedimenti di severità fiscale. Sì, dove c'è ingiustizia, evasione e scarsa produttività nel pubblico impiego. Allora, l'ultima domanda riguarda invece il fondo di salvataggio, perché da un lato c'è chi continua a dire occorrebbe l'Eurobond, obbligazioni che esprimessero tutta l'Europa. Però Olli Rehn oggi ha detto no, attenzione, è più realistico rafforzare il fondo salva Stati, l'abbiamo appena sentito, e su queste linee si è espresso anche il Presidente dell'Unione Europea, José Barroso, che ha chiesto di rafforzare questo, quello che abbiamo chiamato il Fondo Monetario Europeo. Sentiamolo un attimo. Per ciò che riguarda la flessibilità del Fondo Salva Stati, stiamo lavorando su questo tema insieme a tutti gli Stati membri. È un tema che richiede una grande preparazione e non vogliamo fare annunci a cui non seguano risultati. Pensiamo che sia possibile migliorare il funzionamento del Fondo Salva Stati in attesa che si metta a punto ed entri in vigore il meccanismo anticrisi permanente a metà 2013. Questo è il nostro impegno. Stiamo preparando le linee guida del meccanismo permanente e la Commissione esporrà idee concrete al prossimo Consiglio europeo di primavera. Stiamo pensando di rinforzare la capacità effettiva del fondo di concedere prestiti e anche il suo campo d'azione. I mercati mostrano ancora instabilità e noi dobbiamo inviare segnali forti del nostro impegno per garantire la stabilità della zona euro e nell'intera Unione Europea. C'è anche chi si è arrabbiato, scrive un ascoltatore, orientale sarà lei? È certo che sono orientale. sono cresciuto nel nord-est, e un altro ascoltatore che dice: meridionali sarete voi. No, attenzione, penso che Bruni si riferisse a noi meridionali dell'Europa. C'è sempre qualcuno più a nord di te nella vita, a meno che non abiti al polo nord, e quindi noi siamo i meridionali d'Europa. Non si offendono gli ascoltatori del nord Italia, ma del sud Europa. Professor Bruni, la sua opinione, se meglio un fondo come quello che c'è da rinforzare Salva Stati, oppure, come sostiene il ministro Tremonti e anche il presidente dell'Eurogruppo Juncker, meglio un'obbligazione europea che metterebbe tutti a riparo, dopo il meteo e la pubblicità? 349-238-6666 per i vostri sms. minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Berlisoni. Adesso passiamo alla borsa, fra un istante, con questo record. Era tempo, ma veramente tempo, che non vedevi i titoli crescere del 10,3% in Intesa San Paolo, del 9,70% Unicredito, dell'8,70% la Popolare di Milano, dell'8,30% Ubibanca, del 7% il Banco Popolare, del 6,70% Fondiere, sai, del 6% Monte dei Paschi. Tutti i bancari festeggiano in Italia come in Spagna la notizia di cui stiamo parlando: buon andamento delle aste, si riducono dell'asta portoghese, si riducono i rendimenti sulla, sulle obbligazioni portoghesi. Allora, professor Bruni, meglio rafforzare questo fondo salva stati o arrivare, come vuole Tremonti e anche Juncker, a un'obbligazione, cioè a una parte del debito europeo, circa un terzo, che verrebbe accorpato e verrebbe finanziato sotto forma di euro obbligazione, di euro bond? Dunque, bisogna vedere esattamente cosa intendiamo per Eurobond. Da un lato c'è quello di cui parla appunto Tremonti e Juncker, cioè una parte dei nostri normali titoli di Stato che invece di essere emessi dai paesi vengono emessi, diciamo. L'altro sono emissioni di titoli europei che sono fatte proprio da questi fondi di emergenza che sono creati per aiutare i paesi in difficoltà. Queste già esistono. Quindi un passo lo abbiamo già fatto in questa direzione, sono già stati emessi, li hanno comprati fra l'altro, e la notizia è stata anche accolta proprio oggi in modo molto favorevole, li hanno annunciato di comprarli in modo massiccio i giapponesi, i cinesi e non solo loro. Quindi il problema dell'Irlanda, per esempio, è già stato in parte finanziato con proventi che i fondi di emergenza hanno raccolto attraverso emissioni europee. Quindi al concetto di emissioni europee ci siamo già. L'idea di europeizzare una parte molto consistente, si parla del 40% nel famoso articolo di Tremonti, che peraltro segue proposte di Monti e di tanta altra gente negli anni passati, 40% del nostro debito pubblico, emetterlo normalmente senza bisogno di giustificazioni di emergenze in sede europea, beh, questo è un passo, diciamo, che richiede probabilmente tempo, perché richiede che l'Europa decida di fare una politica di bilancio comune, probabilmente richiede anche che dal punto di vista così del controllo democratico e dell'unione politica si facciano ulteriori passi. Occorrono probabilmente diversi altri anni. Grazie al professor Franco Bruni, di nuovo buon anno a lei. E adesso parliamo di questa borsa, però io mi tengo, anzi no dai, facciamo la campanella della borsa, poi torniamo con la base medio orientale. Borsa SIA più 3,82%, la migliore in assoluto dopo Madrid e Milano, più 2,15 Parigi, più 1,80 Francoforte, più al palo, a mezzo punto percentuale di rialzo Londra, più 0,80 l'America, e appunto festeggiano soprattutto le banche. Magari brevettiamo una nuova sigla, la campanella di borsa medio orientale. Allora, come sempre con Radio Corriere Sole 24 Ore, fatica ogni tanto anche in regia. Allora, Livia Zancaner, buon anno. Grazie anche a voi. Te l'ho già fatto, ma te lo rifaccio volentieri, perché poi dicono che sei la mia preferita, ma non è vero. Allora, che cosa festeggiano le banche? Che cosa festeggiano tutti i bancari e anche gli assicurativi? Allora, le banche, allora, bisogna dire che il comparto ha guadagnato il 4,80% in Europa, quindi a salire sono stati tutti i titoli bancari nel vecchio continente, e allora in particolare il comparto andava già bene questa mattina, quindi prima dell'esito del collocamento dell'emissione portoghese, poi ha accelerato appunto dopo il buon esito dell'operazione. In realtà uno dei motivi che ha innescato la corsa dei titoli bancari in Europa il report di JP Morgan, sì. No. Dai. Sì, praticamente gli operatori hanno detto che è stato il solito pretesto che ha innescato gli acquisti sui titoli, che in effetti è da stamattina comunque che hanno iniziato a correre. Qua si parla più, in questo caso la banca comunque parla più in generale di migliore andamento futuro dei titoli bancari europei rispetto a quelli americani, ma per un fatto concreto, perché a breve entrerà in vigore questa nuova normativa che si chiama Volcker Rule e che prevede una riduzione per le banche delle attività non prettamente bancarie come il trading, ed è un business in cui sono molto attivi soprattutto gli istituti americani. Allora sì, Paul Volcker, insomma, è l'uomo che dovrebbe arrivare a quella separazione che invece non si vede ancora tra banche d'affari e banche normali. Comunque, detto ciò, è vero quello che scrivono molti ascoltatori, insomma, festeggiate, c'è chi chiede il gallo l'abbiamo utilizzato all'inizio della trasmissione, quindi non possiamo riutilizzarlo. E mentre stavo dicendo, per quello che riguarda la borsa, no, rido perché qualcuno dice lei si sta crucianizzando, mo c'è un nuovo verbo che dovrebbe essere un insulto, ma vi assicuro che non è così. Dicevo, per quello che riguarda la borsa, è vero che Unicredit è 1,60 e c'è poco da festeggiare visto che viaggiava 2 euro e passa, però ragazzi, più 10,30 Intesa, più 9,70 Unicredit, più 8,60 Popolare di Milano, non mi sembra male, no? Viste le partenze del mercato. Sul Banco Popolare, del Banco Popolare parleremo anche più avanti, perché lì c'è la vicenda Biasi, Fratta Pasini, la quota della Fondazione Cari Verona. Invece Finmeccanica molto bene, non c'entra niente con le banche, più 3,3. Sì, allora il titolo ha beneficiato in indiscrezioni secondo cui il fondo americano First Corporation sarebbe pronto a acquistare il 49% di Ansaldo Energia per circa 500 milioni di euro. Si tratta comunque di indiscrezioni stampa, e l'operazione potrebbe finire sul tavolo del consiglio di amministrazione di Finmeccanica in calendario il prossimo 20 gennaio. Non ha avuto un particolare impatto invece la notizia che Finmeccanica dovrà rimborsare gli aiuti governativi per gli elicotteri Augusta Vestland, ma il mercato ha festeggiato la notizia relativa ad Ansaldo Energia. Sì, oggi festeggiano tutti. Il Sole 24 Ore oggi scriveva di un programma di rimborsi avviato dal governo spagnolo e quindi su Endesa, che è la controllata spagnola di Enel. Pirelli, ho visto anche Pirelli molto forte, adesso me la sono un attimo persa, ma era forte a metà mattinata, no, poi è chiuso più 1,25, c'è un buon netto su Continental. E ancora, tra i migliori e peggiori citiamo, oltre a tutti i bancari assicurativi, anche Mediaset più 3%, Enel abbiamo già detto, A2A più 2,60, Snam più 2,2, Stimacroelectronics più 2,2, Tenaris più 2,1, Atlantia più 2%, negativa, Fiat Industrial, un po' di realizzi, meno 2,36, Exor, la finanziaria controllante, Campari meno 0,26%, Campari? Sì, allora, bisogna dire che il titolo ha toccato durante la seduta del 7 gennaio scorso il massimo storico, il massimo intraday comunque, a 5,05 euro. Quindi oggi il titolo ha perso terreno, e dunque secondo gli operatori il settore in cui opera Campari, quindi il settore del beverage, resta uno dei comparti più interessanti in Europa tra i beni di consumo, ma al contrario rispetto a quanto avvenuto nel 2010, quest'anno non tutti i titoli del comparto faranno meglio del mercato, e Campari è uno di questi. Allora, qui si stanno facendo affari in borsa, lo dico in questi giorni, perché Pininfarina guadagna un altro 16,5%, cavolo. E Cape List Investment più 17, le Sopaf più 22,8 e Mondo Home Entertainment più 35%. Allora, Mondo Home, Cape List Investment e Pininfarina, se vuoi anche le Sopaf, Sì, allora, Per quanto riguarda Mondome, ci sono due notizie che hanno riportato l'attenzione sul titolo. Da una parte la comunicazione che la società controllata Investimenti e Sviluppo è salita oltre il 6% del capitale, e dall'altra l'annuncio relativo alla firma da parte della società di tre contratti di cessione di diritti TV per un valore complessivo di circa 7 milioni. Per quanto riguarda Cape Live, si tratta in questo caso più di speculazioni, in quanto si parla di una battaglia per la conquista della società in attesa dell'assemblea del 10-11 febbraio. Infatti negli ultimi giorni è emerso l'interesse da parte di alcuni azionisti per crescere nel capitale, basta pensare ad Atlantic, che insieme ad altri soci ha raggruppato oltre il 28%, ad altri piccoli azionisti ed un altro imprenditore e azionista che è Michele Barga One, che punta a raccogliere deleghe proprio in vista dell'assemblea. Per quanto riguarda Pininfarina, che in questi giorni sta guadagnando Bolloré, molto, sì, è sempre l'interesse da parte di Bolloré di entrare appunto nel capitale della società. Su Sopaf invece non ci sono notizie al momento. Bene, bene, molto bella la giornata. Volete il gallo? Visto che non ce ne sono tante di giornate così, vi ridiamo il gallo, un gallo sempre orientale, sempre dal sud dell'Europa. Intanto Livia Zancaner, grazie a te e a tutti i colleghi del Corriere sulle 24 ore. Grazie a voi. Allora, gli altri temi che adesso arrivano: la vicenda popolare di Verona, continuo a chiamarla così, Banco Popolare e Unicredito, e poi il PIL tedesco, ma anche la vicenda di Gioia Tauro, un porto, più importante porto d'Europa, bloccato per 30 ore, mancano le navi in arrivo. 349-238-6666 per i vostri sms. Il traffico prima di tutto. Di nuovo in diretta, noi restiamo in tema di banche, ma non per raccontare l'exploit, il botto di oggi, quanto per una vicenda che insomma, così, è tutta strana, essendo un grosso fischio in cuffia, eccoci qua, tutta strana, perché c'è un gruppo che è l'ottavo gruppo bancario europeo, che si chiama Unicredito, che è insomma uno dei primi con Intesa, sono sempre lì in lotta, un gruppo bancario italiano. Dentro Unicredito, gli azionisti principali, oltre a Mediobanca, che è al 5,7% senza diritto di voto, ci sono la Fondazione Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona, che è al 4,6%. La Fondazione Cari Verona, che appunto nasce come importanza quando si crea il gruppo Unicredito, e la Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno entra nel gruppo Unicredito. E fin qui tutto bene. C'è un'altra grossa banca sul territorio del Nord-Est, che è la risultante della fusione tra Popolare di Verona, Popolare di Novara e Bergamo e adesso anche Popolare di Lodi, si chiama Banco Popolare, ma la testa e anche i vertici a Verona, presidente Frattapasini, Saviotti amministratore delegato. Che cosa succede? La cosa incredibile, almeno per me, è che la banca concorrente, o meglio la fondazione della banca concorrente, la fondazione Cari Verona, annuncia di voler comprare o che di poter entrare nel Banco Popolare fino al 5%. C'è una soglia dello 0,5 che potrebbe però essere rimossa da un emendamento del milleproroghe, con lo sponsor forte del sindaco di Verona Flavio Tosi. Alessandro Graziani del Sole 24 ore, buonasera. Buonasera a voi. Allora, chiarisco, perché secondo me è strano. Non è strano che le banche, che dovrebbero farsi una concorrenza spietata, addirittura, cioè, la concorrente voglia entrare nel capitale della principale appunto avversaria sul territorio? Beh, diciamo, c'è un elemento di stranezza, ma anche un elemento di concretezza. Tutto sì, è sempre un investimento, per carità. La legge ha questo piccolo cavillo del tetto dello 0,5%, però insomma, no? È un... Sì, diciamo, però l'elemento, no, attrattivo nei confronti della Fondazione Cari Verona è che Unicredito non è più strutturalmente una banca legata al territorio, anche dopo le fusioni che sono state fatte e che sono operative da due mesi circa con la creazione della banca unica, per cui Unicredito non ha più una banca a Verona. La banca veronese di Unicredito è stata fusa dentro al capogruppo. Attualmente la fondazione quindi è azionista di una holding che ha una serie di banche in 22 paesi europei, mentre il Banco Popolare è oggettivamente una banca legata al territorio che funziona in, come hai ricordato tu, Veneto, Piemonte e Lombardia. No, di certo, Bergamo. E questo è... Allora, no, io ricordo che fu l'agenzia di stampa del Sole 24 Ore, Radio Core, Sole 24 Ore, a dare per prima la notizia dell'aumento di capitale a cui faceva ricorso la Popolare di Verona, 2 miliardi se non ricordo male, però correggimi. Esatto. Dovuti sia alla crisi ma anche alle vicende di Tallise, in cui ci hanno lasciato le penne, ci ha lasciato le penne più di uno in quel gruppo. Detto questo, le ipotesi che subito sono, si sono diffuse, che a questo punto, se Biasi, il potente presidente della Cari Verona, dovesse, Fondazione Cari Verona, veramente acquisire il 5% della Popolare italiana, questo sarebbe a significare l'uscita della Cari Verona da Unicredit. Ricordiamo che Biasi già non partecipò ai tempi di Alessandro Profumo l'aumento di capitale di Unicredit. Ti sembrano così voci strampalate da chi sta ancora smaltendo la sbornia di Capodanno? Adesso, senza esagerare, però più o meno sì, nel senso che la Fondazione Cari Verona resta azionista importante di Unicredit. È possibile che dal 5%, 4,6 quanto ha, possa cedere l'1% e con questo 1% finanziare l'acquisto dei 200 milioni del Banco Popolare, che la porterebbe al 5% appunto della Banca Popolare, sempre ammesso che nel frattempo cambi la legge che impone agli azionisti delle cooperative di stare entro il limite dello 0,5%, e questa è una partita politica dentro la partita finanziaria che si sta giocando in questi giorni, perché il sindaco leghista di Verona, Tosi, come hai ricordato tu, è molto favorevole a questo progetto, perché ancorerebbe il Banco Popolare alla Fondazione Cari Verona, legata al territorio, ma il ministro dell'Economia Tremonti sembra che non sia favorevole. In Parlamento stanno lavorando a un emendamento bipartisan, Partito Democratico, PDL, Lega, che consenta questa deroga, ma ci sono anche molte voci contrarie. Proprio oggi la notizia di giornata è che Guzzetti, presidente delle fondazioni, ha detto che ha fatto capire, diciamo, in modo abbastanza chiaro che non è assolutamente a favore. Io dico una cosa, io non ci capisco nulla, per cui starò dicendo un'altra castroneria, ma insomma, se si è concorrenti, cioè entrare nel capitale del concorrente con il 5%, boh, non lo so, non crea qualche problema poi di conflitto di interessi, cioè le politiche aggressive che vai a fare, non lo so, chiedo, perché quando entri nel capitale poi ti siedi anche nel CDA, insomma hai anche delle notizie interne. Boh, la concorrenza dovrebbe essere un'altra cosa, cioè sarebbe come se la Volkswagen si comprasse il 5% della Fiat, boh, o la Renault il 5% della Toyota, o il Monte dei Paschi il 5% di Intesa. La vedrei un po' la fondazione, chiaramente. Comunque, ho capito benissimo invece l'obiettivo del sindaco di Verona, che è di dire: bene, se il 5% della Fondazione Cari Verona entra nel Banco Popolare, lo agganciamo a Verona e basta con iniziative fuori dal territorio. Ma quello è il sindaco di Verona, non una banca nazionale. Grazie Alessandro Graziani del Sole 24 Ore. E noi da Verona a Gioia Tauro, e parliamo dalle banche ai container, il più importante porto container d'Europa, chiuso per 30 ore, non sono arrivate le navi. Vi aspettavate la base medio orientale per Gioia Tauro, invece no. Pippo Callipo, reggente commissario straordinario di Confindustria, Filippo Callipo, reggente di Confindustria per Reggio Calabria, buonasera. Buonasera. Perché la chiamiamo? Perché lei ha appena avuto un incontro con i vari sindacati sul porto di Gioia Tauro. Allora, che cosa è successo? Perché questo è un porto anche delicato. Nel febbraio 2008 la Commissione parlamentare antimafia ha concluso che l'Ndrangheta controlla o influenza gran parte dell'attività economica intorno al porto di Gioia Tauro. Ma insomma, costruito con 140 miliardi di lire, è il più grande scalo container d'Europa. Smista oltre 3 milioni di container l'anno, dà lavoro a 1200 dipendenti, è gestito dalla Med Center Container Terminal della tedesca Eurocai. Si è bloccato per 30 ore? Sì, si è bloccato per 30 ore perché sono mancate le navi. Praticamente c'è stato un buco negli arrivi e quindi Medis Center è stata costretta a chiudere, a bloccare tutte le attività lavorative. Comunque il problema sta in questi termini, che non è diciamo, la preoccupazione dei lavoratori qual era? Quella che si pensava fosse una avvisaglia, fosse un inizio di una serie di blocchi. Invece l'ingegnere Iacono, che è l'amministratore delegato di Medis Center, ha precisato oggi di fronte a tutte le sigle sindacali, eccetto gli autonomi, che non è assolutamente così, che Medis Center tiene molto al porto di Gioia, investe ancora nel porto di Gioia, però si aspetta un aiuto sostanziale da parte del governo perché Gioia Tauro diventi diciamo conveniente alle linee di navigazione perché usino per transhipment Gioia Tauro, perché oggi Gioia Tauro, tra le tasse di sbarco, le tasse di portuali, l'ancoraggio, il pilota per entrare in porto, tutte queste cose non è molto molto... E cioè voi chiedete, perché nel 2010 c'era ancora la tassa, l'agevolazione fiscale sulla tassa di ancoraggio, sì, perché c'era, per contrastare la concorrenza dei porti africani, nel 2011 è sparita. No, c'era, ma c'era un intervento da parte del governo, quindi si chiede una proroga a questi interventi, si chiede per esempio una detassazione delle accise sul gasolio per quanto riguarda tutti i servizi interni. Mi scusi Calipo, ma sono ripartite le attività adesso? Ancora sono ripartite, adesso sono ripartite subito dopo quelle 30 ore, 28 ore, non so, sono ripartite. Quindi diciamo fiscalità di vantaggio anche per Gioia Tauro, grazie anche per la sintesi, perché ci sembrava importante tornare sulla vicenda, visto l'incontro che avete avuto oggi con le autorità locali e anche con gli altri rappresentanti del mondo sindacale. Dopo il GR, grazie intanto a Filippo Calipo, dopo il GR vi do anche il Baltic Dry Index, che è alla base, il crollo dei prezzi di Nolo, del cargo, è alla base di questo blocco. Poi parliamo anche di Cine Lega, forse, se ce la facciamo, e della Germania. 349-238-6666 per i vostri sms. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per parlare adesso da un lato della nostra produzione industriale, ma anche e soprattutto della Germania. Allora, produzione industriale italiana sostanzialmente buono il dato di novembre, torna a crescere, più 1,1% sul mese prima, più 4% sull'anno, ma parla di ripresa faticosa il centro di Confindustria, dicendo vi sarà uno stallo anche a dicembre. E del rapporto dell'andamento, scusatemi, delle nostre imprese e il rapporto anche con il mondo bancario, ha parlato anche il presidente dell'ABI, e mi riferisco a Mussari. Ascoltiamo allora, perché è un ragionamento fatto anche sulle riforme che sarebbero necessarie per le nostre imprese e soprattutto sulla scarsa dimensione delle imprese italiane. Mussari ha parlato nel corso dell'audizione della Commissione Finanze della Camera. Noi diciamo, come industria bancaria che ha sostenuto, sostiene e sosterrà in maniera significativa lo sviluppo e l'andamento delle imprese italiane, che sarebbe il momento di migliorare le possibilità di accesso delle medesime imprese al mercato dei capitali, siano essi azionari, siano essi obbligazionari. Avere questo spirito significa superare difficoltà strutturali e quindi e culturali delle imprese, ridurre per quanto è possibile i costi per la quotazione, favorire la presenza di investitori istituzionali domestici dedicati a questo tipo di settore, modificare la regolamentazione sulla responsabilità degli intermediari e anche cercare di ridurre i tempi di approvazione di queste operazioni. Tutto questo sta dentro un ragionamento che punta alla crescita. Crescita perché solo se riusciamo a determinare la crescita di una serie di campioni italiani che non mirino a dimensioni galattiche, ma che abbiano dimensioni in grado di assicurare alle imprese, agli imprenditori, a chi lavora per essi, condizione di innovazione indispensabile per competere? Perché il nostro gap di produttività, che si trascina ormai dal sostanzialmente 1989, ad essere clementi, è un gap pericoloso in termini di autonomia del Paese. È un gap che ha determinato poi gap di produzione di ricchezza, e la produzione di ricchezza rende comunque un Paese meno giusto, meno equo e meno capace di sostituire con fenomeni di mobilità sociale chi esce da un certo ciclo di lavoro e chi entra. Così Giuseppe Mussari, presidente dell'ABI, chi sicuramente non ha problemi né di dimensione delle imprese né di produzione industriale è la Germania. Il dato di oggi, anche se in linea con l'attesa, è impressionante: più 3,6% il PIL tedesco nel 2010 contro il meno 4,7% dell'anno precedente. Ora so che i confronti sono impietosi, però noi nel 2009 siamo calati come la Germania, meno 5. Il problema è che nel 2010 cresciamo meno di un terzo della Germania, più 1%. È la crescita economica più forte dell'unificazione tedesca. Il deficit scende al 3,5%, la disoccupazione è calata di 260.000 unità e la Bundesbank si aspetta, non solo la Bundesbank, anche il ministro dell'economia tedesco Reinhard Brüderle si aspetta di arrivare alla piena occupazione già da quest'anno. E allora la domanda è difficile da un lato, forse banale dall'altro, comunque cerco di fare lo stesso a Beda Romano, corrispondente sulle 24 ore dalla Germania. Buonasera Beda. Buonasera. Domanda è: qual è il segreto della Germania, al di là del fatto che abbia agganciato l'export e che sia un grande paese esportatore, che ha le grandi imprese, ma c'è dell'altro? Perché queste sono cose che, insomma, già sappiamo, noi non abbiamo le grandi imprese, però sull'export dopo la Germania veniamo noi in Europa. C'è dell'altro? Ma credo che ci sia dell'altro, sì. Credo che la Germania si sia ripresa bene dalla recessione del 2009, perché le imprese e il paese nel suo complesso aveva fatto negli anni precedenti un grande sforzo per tornare ad essere competitivo. Il paese era entrato nell'Unione Monetaria nel 1999 con un marco sopravvalutato e con un'economia molto difficoltà oberata dall'unificazione. Nel corso dei primi anni del decennio, fra il 2002 e il 2006, il paese ha fatto un grande sforzo per cercare di tornare ad essere competitivo. Hanno ridotto i salari reali, hanno rimesso mano alla gestione delle imprese, hanno ridotto il peso del welfare state. E quando nel 2005 il paese è tornato a crescere, poi naturalmente c'è stata la crisi del 2008 e 2009, c'è stato un tracollo, la ripresa del 2010 è la ripresa di un paese che è competitivo sui grandi mercati internazionali e soprattutto presente sui grandi mercati internazionali, perché questo paese nel corso degli ultimi 5 anni ha fatto enormi sforzi per aprire uffici, aprire laboratori di ricerca, aprire stabilimenti in giro per il mondo, dai grandi paesi emergenti ai piccoli paesi emergenti. In altre parole, non più solo Cina e India, ma anche Cile e Vietnam, per esempio, due paesi dove la Germania esporta moltissimo. Allora, se io dicessi che oltre alle dimensioni tedesche, all'efficienza tedesca, c'è stata anche una grande capacità della Germania di aprirsi ulteriormente ai mercati, di internazionalizzarsi, di non chiedere dazi, barriere e vade retro la Cina, ma di andare in questi mercati, anche quelli che tu citavi, non solo quelli noti, non solo Cina, Vietnam, India, ma anche Cile. Insomma, questo potrebbe essere la mossa aggiuntiva, mettiamola così? Io credo che la presenza all'estero del paese è una presenza originale. In altre parole, non è una presenza basata esclusivamente dalle imprese che hanno aperto uffici commerciali e stabilimenti produttivi, La Germania negli ultimi anni ha moltiplicato il numero di accordi fra università statali e fra università tedesche e università straniere. Vi sono molte università tedesche che hanno aperto corsi di laurea, facoltà, vere e proprie università nei paesi emergenti, dalla Giordania all'Egitto, dal Brasile all'Indonesia. Queste università tedesche all'estero preparano la classe dirigente locale a lavorare nelle imprese tedesche con le imprese tedesche. Quindi c'è stato un enorme sforzo di politica economica per non essere semplicemente un paese esportatore, è un paese esportatore presente sui mercati dove vende. Beh, insomma, questa è forse una lezione molto importante, perché noi abbiamo mille altri problemi rispetto alla Germania. Ripeto, non è in discussione il modello tedesco, non si possono copiare i modelli quando sono paesi come stati nazione con una storia come la Germania, però si possono copiare le scelte. Il fatto di aprire non solo gli stabilimenti, gli uffici commerciali, come tu stai raccontando, Beato Romano, ma il fatto che la Germania sia andata all'estero e si sia aperta all'estero anche a portare le sue università, a formare classe dirigente, a mantenere rapporti culturali e commerciali, beh, insomma, questa è sicuramente una chiave in più, un valore aggiunto. E poi non dobbiamo stupirci se la Germania è già uscita dalla recessione e va verso la piena occupazione. Grazie a Beda Romano in collegamento con noi da Francoforte. A presto. Sì, vedo dei messaggi al 349-238-6666, ma se noi aprissimo le università in Giordania, in Cile, cosa insegneremmo? Come si piazzano le mogli, i figli, i cognati? Lo so, come, cioè, la formazione della nostra classe dirigente. Tema caro anche la Lega, e ringrazio per averci raggiunto in collegamento l'europarlamentare, nonché capogruppo del Carroccio a Milano, Matteo Salvini, buonasera. A lei, a chi ci ascolta. Allora, non parleremo però delle baronie nelle università, ma parleremo della Cina, insomma, che è così presente che, tra virgolette, frega anche voi, frega anche il Comune di Milano. Però mi dia un minuto di pazienza, ho il traffico. 349-238-6666 per i vostri sms. Allora, ultima parte del programma. Dicevo, visto che la Germania, ce l'ha appena raccontato Beato Romano, ha tra le chiavi del suo successo la grande apertura verso i mercati esteri, l'avere cavalcato la globalizzazione, aver aperto università e quant'altro, questa vicenda forse racconta meglio di altre quanto sia difficile, poi se non impossibile, ragionare in termini di blocco, di dazi, di muri da alzare nei confronti della nuova potenza economica mondiale che si chiama Cina. Caro Matteo Salvini, non potevo non mettere una base turca. Stiamo ragionando dell'Europa mediterranea, sulle obbligazioni, sui debiti dei paesi sovrani e tutta la puntata che andiamo avanti così. Qual è la vicenda? Insomma, le t-shirt, le felpe, i cappellini, perfino le palle per addobbare gli alberi di Natale con il logo di Milano, il brand Milano, il logo del comune, sono state tutte fabbricate in aziende tra il Bangladesh, la Cambogia e appunto la Cina. Ora, voglio dire, va bene così, cioè immagino ci fosse un appalto e si sia chiesto il prodotto che costava meno con la maggiore qualità. Però, insomma, obiettivamente non la fa riflettere il fatto che tanto ormai la Cina è così la manifattura del mondo, che anche quando uno vuole produrre degli oggetti con il Comune di Milano per promuovere la città di Milano, poi gli oggetti vengono fatti in Cina? Salvini. Sì, fa riflettere e ci fa capire che occorre anche rimediare nei limiti di quanto la legge prevede. Innanzitutto il dato positivo è che il marchio del Comune di Milano, l'immagine di Milano con magliette, panettoni, orologi, cappellini, è stato stravenduto non solo a Milano ma in tutta Italia e in giro per il mondo. E vendere il marchio Milano significa anche portare in giro quella che è la nostra impresa. Sicuramente, visto che stiamo andando verso Expo e stiamo lavorando come Comune di Milano perché lavorino soprattutto imprese milanesi e lombarde, andremo dal privato che fornisce al Comune di Milano questo materiale chiedendo la cortesia per il momento, perché la normativa europea per il momento non ci permette di imporre nulla, ma di chiedere la cortesia di rifornirsi soprattutto per i prodotti tessili presso aziende milanesi e lombarde, perché da Busto Arsizio a Como, passando per Milano, non mancano. Quindi è una giusta notazione che cogliamo, e quindi da quello che è un successo vedremo di trasformare in un successo totalmente milanese e lombarde. Si può fare. Salvini, mi scusi, ma se l'imprenditore poi che li produce tra Como, Varese, Busto, avesse dei costi di produzione per farli tutti made in Italy, quindi anche made in Milano, doppi, tripli, cioè cappellini e t-shirt, costassero 2-3 volte le palle di Natale, ormai insomma, bisogna aspettare un anno, vi andrebbe bene uguale? No, ovviamente no, perché, sai, come amministratore pubblico, è quello, come amministratore pubblico rispondo ai milanesi di quello che spendo, di come lo spendo, ma io sono sicuro che ormai, vista la situazione dei mercati, vista la crisi e vista la voglia di lavorare e visto il fatto che molti dei nostri si sono riorganizzati e hanno abbassato i costi di produzione, non il doppio, però se mi costa 20 centesimi in più io preferisco pagare 20 centesimi in più e produrre a Como. Mi scusi, visto che l'ho ospite, ma visto che voi parlate alla parte imprenditoriale del nord Italia, ma iniziare a dire anche, insomma, andiamo a colonizzarli noi sti cinesi, non ci facciamo colonizzare, cioè avere una reazione che non sia solo di così erigere barriere, ponti levatoi, dire attenzione, insomma, qua la Germania ci insegna che i primi che arrivano meglio fanno, facciamo anche noi come tedeschi, anche perché le imprese italiane hanno poco da imparare quanto a capacità di export da quelle tedesche, perché non è che stiamo parlando di un paese arretrato da questo punto di vista. È no. Quello che fortunatamente, al di là della politica, molti dei nostri imprenditori, anche quelli medio piccoli, stanno già facendo, non solo in Cina ma in India, in Sud America, in Turchia, in Nord Africa. Detto questo, quando c'è un'emorragia occorre fermare l'emorragia, quindi quando si parla di dazi, di restrizioni, di quote di mercato, è per evitare che interi settori, tornando al tessile ad esempio, finiscano lunghi distesi. Per curiosità, che cosa è successo all'assessore Morelli, dentro la Lega, perché è un assessore della Giunta Moratti, ma insomma gli avete detto così, no, che punizione avrà? Dovrà passare un mese a Shanghai a mangiare involtini? No. L'assessore Morelli, che è giovane ed è brillante e ha portato avanti questo discorso, ha portato nelle casse del Comune di Milano centinaia di migliaia di euro, ha portato la nostra bandiera, che è quella, la Croce Rossa su campo bianco, in giro per il mondo e nelle case di tanti milanesi e non milanesi, e sta lavorando peraltro, probabilmente lavorerà anche con voi, a un'iniziativa che va in quest'ottica, che è il Fuori Bit, quando ci sarà il Salone del Turismo, che porterà centinaia di migliaia di persone a Milano. Porteremo Milano in giro per il mondo, come stanno cercando di fare i tedeschi, quindi è un assessore che sta facendo bene il suo mestiere. Bene, Salvini, però una confessione me la può fare, insomma, forse il tema di 4-5 anni fa dei dazi, fermo restando che qua tutti siamo contrari sulla contraffazione, che è un reato a qualunque livello, che venga fatta in Italia o in Cina è un reato, ma il tema dei dazi è un tema superato dalla globalizzazione, forse bisogna reinventarsi anche un po' qualche paradigma, anche da un punto di vista leghista, non è che dico bisogna avere il pensiero unico, però. Il dazio non era risolutivo, ma tamponava un'emorragia. Io sono ancora convinto che su alcune merci, così come l'Europa fa su decine di merci, però che convengono ai tedeschi e ai francesi e non agli italiani perché siamo meno bravi a farci valere, su alcune merci sia ancora doveroso fare quello che fa la Cina, che ha dei dazi in ingresso per diverse merci. Io sono stato in un grande magazzino di articoli sportivi a cercare dei regali per mio figlio a Natale, e faccio il nome e cognome, si chiama Decathlon, in centro a Milano, e sono uscito perché era tutta roba cinese, quindi un equilibrio secondo me bisogna trovare. È lo stesso delle scarpe di D'Alema, lo sa? La Decathlon? Perché c'ha le scarpe cinesi D'Alema? No, quelle che aveva Sam Moritz, comunque questo non voglio entrare. Lui ce l'aveva Sam Moritz, ce l'aveva il Largo Cairoli, però sono uscite, è una scelta, secondo me non si può fermare il fiume, ma lo si può indirizzare, si possono anche mettere degli argini che impediscano la devastazione. Però un po' forse di rivisitazione sull'approccio cinese forse lo state facendo anche voi. Un'ultima domanda, Salvini, le ha dato più fastidio come leghista, doc, avere le felpe, i cappellini, le t-shirt, le palle di Natale made in Cambogia, Bangladesh e Cina, con il marchio Comune di Milano, oppure il fatto che il vostro panettone lombard fosse prodotto a Verona? No, l'asse Lombardo-Veneto, ecco, è ferro, c'è lo scambio fra Panettone e Pandoro che è un gemellaggio che fortifica, e quindi su quello buon appetito a tutti. Allora, buon appetito anche a lei, però mi raccomando, il tema è serissimo, lui l'abbiamo usato come aneddoto, cercare di bloccare la storia attraverso i dazi e i limiti, poi succede che pubblichi, che ti compri involontariamente merce cinese. Grazie comunque al capogruppo del Carroccio, nonché europarlamentare Matteo Salvini. Grazie a voi. E vai con questa base turca, l'Europa del Sud. A proposito di Europa del Sud, ecco Giuseppe Cruciani che tra poco condurrà un programma da Europa del Sud. Oggi ce l'abbiamo con l'Europa del Sud, i debiti dei paesi europei del Sud. Giuseppe, i temi di questa giornata, che immagino non riguardino i debiti dei paesi europei, ma... I temi. Di temi come parliamo. Come sei giovane. Come sei giovane. Che approccio vecchio, come antiquato. Come sei giovane. Dimmi. Che ne so, non so che dirti, la Fiat, che vuoi, ancora la vicenda Marchionne, vuoi qualcosa che riguarda, che devo dirti, l'Italia dei valori, la spaccatura, una scaletta del programma. Ma non ho scaletta. È arrivato a 5 minuti e si sta inventando scaletta. I temi, che devo esatto, dire? Esatto, bravo. Temi in libertà, quelli che volete voi, chiamateci 800 24. Bello fare il programma così, bello fare il programma così, te lo fanno gli ascoltatori. Va bene, tra poco la Zanzara, noi ci sentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.